baci della prima sera ricordo ancora. Innamorata l'aspettavo accarezzando i rami in fior, dolcemente mi stringeva lì sul suo cuore. Sotto i ciliegi quel dì abbiamo giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amor con il profumo dei fiori mi fece tanto sognare e sospirare. Ciliegi rose, bianchi veli, fu l'armonia del nostro amor, la più felice primavera dei nostri amor. Tutti in fila.